la rivista tanto meno. Quindi non, da dove vengono? Non si sa, quello che ha un minimo di scuola infatti si vede subito, non so, Fiorello che viene come si dice, dai luoghi turistici, si vede che c'ha una certa scuola, perché ha fatto della sperimentazione in questi villaggi turistici. Questi che arrivano oggi in televisione non hanno fatto più nessuna gavetta, nessuna scuola. Molto piacevoli, spiritose, piacevoli, intelligenti, certo. Coppia affiatata di una comicità scientifica nel senso di avere 4-5 regole da rispettare, e loro queste rispettavano, partendo in un modo, arrivando a metà come dovevano arrivare e chiudendo in un certo modo. Cioè, in pratica, veri comici, non personaggi che improvvisavano, ma come se avessero studiato quella parte tutta la vita. Vuoi qualche altra cosa oltre alla gazzosa? Andiamo di sopra a fare due chiacchiere. Due chiacchiere da $5. Sei carino. Voglio usarti un trattamento di riguardo, anche perché la serata si ripromette nera. Saputo niente di quel cadavere all'angolo della 14ª? Ah, no, Sherlock Holmes. Dammi i soldi che sono finiti, dammi i soldi che sono finiti, dammi i soldi che sono finiti, dammi l'ever disco che si sciuva la puntina, vero? Eh certo, perché noi invece non famo niente per voi, vero? Guardare i ragazzini, la casa, il bucato, il cucito, lo stiro, quello non è niente. Poi quando la sera rientra il maridino, noi gli andiamo incontro tutte carucce, tutte affettuose, tutte fresche. E ci aspettiamo da lui una frase carina, un gesto gentile. Lui ci va incontro e fa: è pronto? E non è mai pronto, chissà com'è. E se poi